Mancini. So otta ite kina italo. Sono kami kata vita da kete mo. Si vasi kete te kita uze. Hayaku ni haiko mo. Hey, boy.